centro negozi e vie di vita, silenzio e guai. Tu che passi dentro il mio cielo sfortunato, se tu ti riparerai, ho un tetto di fantasie. Comunque ti bagnerai, perché grandi nel mio tormento sconfinato. Stupida, non vedi, io non piango, non parlo di te, ma per me sei tutto. Stupida, mi credi, quando guardo non vedo che te. Se il mio sole è matto, dovunque mi perderai, ritrovami dentro te. Nel buio mi sentirai, come un battito lento, un soffio infinito. Stupida, non vedi, di te, ma per me sei tutto. Stupida, mi credi, quando guardo non vedo che te. Se il mio sole è matto, nel mio respiro sei, nei miei piedi dove vado, nel mio sorriso semplice, nel mio grido disperato, in tutto. Stupida, non vedi, non piango, non parlo di te, ma per me sei tutto. Stupida, mi credi, quando guardo non vedo che te. Sole matto, ma per me sei tutto.